Le parole lette così non sembrano avere senso. Provate a guardarle da un'altra prospettiva, a trovare un altro modo per leggerle.